Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. "No, say the cat is in the sack when you have not the cat in the sack." A questo punto la notizia è ufficiale, la frittata è fatta. Allegramente col consenso generale la frittata è fatta. Tra guastatori e giudici d'assalto, tra sceneggiate e indici d'ascolto, praticamente la frittata è fatta. Vai, Sam. Dovendo scegliere tra il tutto mai e il niente oggi, è meglio fare un pezzo immediatamente e chiudere entro la settimana la discussione e votare e portare a casa la prima lettura di questa legge. E le unioni civili le fanno con Alfano. Aspettiamo la riforma della giustizia con Totò Riina e poi le abbiamo completate tutte probabilmente. Se avesse coraggio, se il PD avesse coraggio e fosse un po' meno cagasotto, dovrebbe venire in aula e votare i 500 emendamenti insieme a noi. Allegramente, nonostante il presidente, la frittata è fatta. La terzietà d'option sembra, articolo 5, sembra che venga stralciato. Lo consideriamo una vittoria. Una vittoria di chi? Del 20 giugno e del 30 gennaio. È una vittoria del popolo, delle famiglie. Quest'ultimo è il signor Massimo Gandolfini, leader, uno dei leader del Family Day. Avete sentito, c'è di tutto, cagasotto, venite in aula a votare, fate la riforma della giustizia con Totò Riina adesso, dice Di Maio, ovviamente per paradosso. Effettivamente, cari ascoltatori, un dubbio pervade anche me. Oggi, quando ho visto il titolo del Fatto Quotidiano con questo perché a caratteri cubitali, perché Renzi non si può votare la legge emendamento per emendamento? Pare che ci vogliano 3 giorni di lavoro, 500 emendamenti, 3 giorni di lavoro. Perché non si vota? Cioè, una legge non, in teoria, così è. Per come ci hanno insegnato che funziona in Parlamento, è una legge con 500 emendamenti, si discute, è una legge peraltro che l'Italia attende da 30 anni. Cioè, non si può così, emendamento per emendamento, votare una cosa che dovrebbe essere normale. C'è il rischio effettivamente, caro Presidente del Consiglio, che su qualche emendamento andiate sotto, ecco, succede in democrazia. No, è una cosa che se uno non ha i numeri totali su tutti gli emendamenti, e succede, può succedere. No, meglio evitare, dici? Meglio max emendamento, fiducia e via? E va bene, allora. In un momento non te ne sei reso conto, la frittata è fatta. E allora, avanti così, citazione celebre, facciamoci nel male. 349-238-6666, questo è il numero per i vostri messaggi WhatsApp, mandateceli anche in audio, anzi soprattutto in audio, diteci che ne pensate di questa cosa, insomma, delle unioni civili che verrà approvata domani con la fiducia, con via la stepchild adoption. Oh Milan, hai anche tu WhatsApp? Via tutto, quella cosa lì che non sanno neanche pronunciare. Via le adozioni. Rimane la reversibilità. Ieri Renzi ha incontrato il segretario di Stato Vaticano Parolin. Hanno dimostrato che c'è qualche incongruenza, qualche problema. Comunque, insomma, poi le notizie che circolano sui giornali, c'era gli americani che ci spiavano. Berlusconi che dice: vedi, è la prova del complotto tramato per farmi cadere nel 2011. I Berlusconi, gli americani che ci spiavano. Noi che facciamo? Gli diamo le basi di Sigonella, così per ringraziarli, anche un paio di birre, e se vogliono un paio di scappellotti, noi siamo pronti. 6:34 minuti, dai, oggi sono molto polemico. Mamma mia che polemico che sono. Sembro una pentola di fagioli. Devo subito convocare la nostra Paola Saluzzi. Buongiorno Paola. Come stai intanto? Paoletta, allora, come stai? Alla domanda successiva. Intanto buongiorno. Ieri accendo Sky, non ti vedo. Per rimanere a casa, adesso senza fare superomismi, ma per restare proprio a casa devo proprio stare male. La rossa deve stare male. Sì. Come stai? L'influenza colpisce, colpisce, ferisce, ma non abbatte. Sono qui. Dopo tutta la notte passata a fare radio, cioè vi rendete conto? Tutta la notte a fare radio, Paola, e adesso con la febbre è qui con noi la nostra Paola. Ho preso freddo, notte tempo, ecco. Hai preso freddo, ai. Comunque buongiorno, in ogni caso naso chiuso, ma buongiorno. Sentite qua, dai, facci un piccolo editoriale con questa bella voce, un po' tappata. Allora, insieme alla nostra Paola Saluzzi, febbricitante, ma non per questo meno gradita, anzi, grazie, ti vogliamo ancora più bene perché, insomma, per questo sforzo fisico, hai messo già il termometro? No, febbre è andata via, anche perché è stata abbattuta da più parti. Insomma, non avrebbe motivo di esistere, sì. Solo che il famoso raffreddore, che se lo curi dura 7 giorni, se non lo curi dura sette giorni. E quindi facciamo come ai tempi della scuola, insomma, ce lo teniamo. Insieme a te c'è il nostro, c'è la nostra Caterina, ovviamente, che sta bene, la nostra gatta. Benissimo, lei ha fatto da copertina in queste ore, pur miau miau. La copertina Caterina adesso scatena subito i messaggi dei nostri ascoltatori, lo so già. Se hai bisogno di una copertina io ci sono, è chiaro, te la sei tirata. Ma insieme a te c'è il nostro Luca Dini, direttore di Valle di Fer. Buongiorno, hai capito, Luca è qui con la febbre, la nostra Paola Saluzzi, un eroe proprio, mamma mia. Anzi, salutiamo. C'è gente che corre. C'è gente dalla che mia corre. Finestra, sto vedendo una brigata di. Apri e urlagli qualcosa. Urlagli qualcosa. Ma statene a casa a quest'ora. Ma no, ma sono bellissimi. Sono delle papere che corrono dietro a mamma papera. È fantastico. Sono dietro il gruppetto di 6 e davanti quello, il settimo. Sì. Che guida. Questi sono eroici. Cioè alle 7:20 e poi tornano a casa. Sì. Sistemano e vanno al lavoro. È certo. Senti qui i nostri amici su WhatsApp. Sì. Ciao Alessandro, sono infermiere. Se volete la curo io la Paola. Eccolo qua. Fabio, Milano. Eccoci, Fabio da Milano in presa diretta. È infermiere, non dottore, però. Però insomma, vedi Luca come i nostri ascoltatori rispondono in presa diretta. Viva gli infermieri. Viva gli infermieri, certo. Cari amici, qua c'è da chiarire questa questione. Allora, avete capito perché Renzi, tu l'hai capito Luca, perché Renzi non fa votare gli emendamenti e preferisce blindarsi? Cioè perché? Cosa ci sarebbe? Ma io credo che, cioè, quello che si sapeva da sempre è che i problemi ci sono e grossi dentro il PD. E poi ci sono altrove, poi diciamolo, ci sono anche tra i 5 Stelle, e la verità che non si dice è che andando a votare emendamento per emendamento questa legge rischia di uscirne molto più azzoppata che solo dalla step child adoption. Cioè, quindi e peraltro è una cosa sacrosanta che però verrà comunque, cioè chi si illude che la step child adoption non ci sarà si illude proprio, perché è la classica cosa che saranno i magistrati, a meno che non ci sia presto una legge per farla passare comunque, sì. Saranno i magistrati a... E già lo stanno facendo con sentenze. I diritti dei bambini sono prioritari e quindi per chi pensa che sia una vittoria del popolo dei Family Day è una vittoria di Pirro. Però effettivamente la situazione è paradossale in Italia, cioè vuoi fare una legge dopo 30 anni e ti scontri con delle problematiche parlamentari, e questo succede. Tanto appunto dici tu, tanto ci sono i magistrati che ci penseranno, che è un'altra stortura se vuoi, perché voglio dire... Però se bisogna andare avanti così, se devo dire, io personalmente penso che il grosso errore di Renzi è che a questa minoranza dovrebbe dire una volta per tutte o dentro o fuori, perché anche perché veramente una cioè, opporsi alla stepchild adoption con tutte le storie dell'utero anche se qui è, qui che è, sono è, altre storie è veramente una è una porcata fatta ai bambini in realtà non è un che qui, secondo me, qui in realtà poi è più Alfano, come sappiamo, che è, cioè più che la minoranza del PD, anche, è proprio Alfano. Del PD, anche del PD, anche del PD, certo, ci sono i cosiddetti, come si chiamano? Cattodem, Paola Saluzzi. Cattodem, Cattodem, un po' come... Hanno bisogno dell'analista. Hanno bisogno dell'analista, dice. Sì, hanno dei problemi di identità. Ma no, dai. Senti adesso i Cattodem che si arrabbiano, non so bene che categoria. Carico. Sì. Esatto. Comunque... Paola, insomma, porta a casa un bicchiere mezzo pieno, Renzi. Questo dice. Effettivamente si rischierebbe un allungo ulteriore e una, come dire, una spaccatura, non parlo di non tipo politica, ma una spaccatura ulteriore proprio della legge in sé. Quindi prima questo e poi ovviamente si continuerà a lavorare, perché il fatto anche che si voglia parlare di adozione per i single, per esempio, cosa che ancora non è stata affrontata nel nostro paese, farà parte di un progetto secondo me non troppo successivo. No, oramai è come se fosse partita una macchina che non puoi fermare più, c'è un motore non si ferma. Perché te lo chiede comunque la società, con tutto con tutta la polemica del caso, con tutto il fatto che ci siano gruppi che la pensino in maniera diametralmente opposta, cioè non c'è una linea comune, questo sì, adesso oltre al discorso dello psicologo, ma non c'è una linea comune, però intanto si porta a casa un prodotto che ha a che fare con reversibilità della pensione, maggiori garanzie, il cognome, portare il cognome, ecco, questo fatto che in questo paese viene a... è ancora mancante. Sì. Tutto grazie, però questo va detto coi voti anche di Verdini, cioè Verdini probabilmente i suoi 19, credo, probabilmente voteranno la fiducia domani, ma è un bel ingresso in governo a questo punto, no? Non lo so. Ma sai, io sono dell'idea sempre che bisogna guardare anche il merito delle cose, oltre che chi ha votato che cosa, perché cioè, a me interessa più che cosa che chi, Cioè ti interessa più la legge, portare a casa in questo caso. Mi sembra veramente che tutto questo discorso su fate la legge con quello, fate la legge con quell'altro, cioè a me interessa la legge, no? Non chi la vota. Una polemica inutile. Devo dire che effettivamente su leggi di questo tipo, cioè cosiddette etiche, no? che riguardano temi etici, le maggioranze sono trasversali. Questo va bene, sì, cioè, sì, chiaramente se fosse una legge più è grave, se non lo sono. Se fosse più una legge di governo, certamente bisognerebbe stare a vedere chi sta dentro e chi sta fuori all'interno del governo. Non è una legge di governo, questo va ricordato. E poi cioè, ci sono leggi sulle quali farebbe anche piacere vedere, ma non è questa chiaramente, un voto comune, no? Per esempio quello che io dico sempre, la pedalata comune, che si va in tandem, ecco, lì non stai a contare, pensa a una legge contro la violenza sulle donne, non stai a contare chi voti, chi stia votando, perché abbia votato quello, ma allora c'è anche lui all'interno del voto, no, è un gruppo unico, legge è diversa perché è diversa, e lo sapevamo dall'inizio, cioè che questa legge dividesse come un fiume che taglia a metà un territorio. Ma questo sì, come tutti questi temi. Vedi che però ci scrive Max da Trento, cara Paola, tu che dai dei pazzi a quelli che corrono, 4:30 sveglia, alle 5 una corsetta, 45 minuti, doccia e poi alle 6:30 lavoro nelle orecchie, Alessandro Milan. Cioè, sono così mia sorella, non so perché abbiano dato tutto a lei i miei genitori. Cioè tutta la pazzia a lei. Tutta la pazzia a lei. La chiamo Raffi Coach, mi sorella si chiama Raffaella, la chiamo Raffi Coach perché lei... Com'è che la chiami, Raffi? Raffi Coach. Perché lei per qualsiasi cosa è il coach, il naturale coach, gli dice cosa fare quando Raffi fare. Coach. È un mito, sa tutto, sa sempre tutto, di come organizzare tutto, lei sa farlo. Un abbraccio a Raffi Coach, mi sembra giusto. Sentite qui invece, visto che ci sono delle idee così molto pacate, sentite il leghista Fedriga parla dell'utero in affitto, Non posso, come ci ha testimoniato lo stesso senatore Lo Giudice, togliere una volta uscito dal grembo materno quel bambino dal seno della mamma perché non deve avere contatti con quella donna. È, per me è nazismo. Questo si chiama nazismo. Nazismo. Oh, insomma, nazismo. Controllate allora Marine Le Pen. No, nazismo. Detto che, Luca, io lo sai come la penso, l'ho sempre detto, sono contento che non ci sia l'utero in affitto. È una pratica che a me non piace. Insomma, ci sono paesi però democraticissimi come il Canada, gli Stati Uniti che lo consentono. Io sono contrario, ma voglio dire, cioè, anch'io ho perplessità. Certo, non direi che è nazismo. Il nazismo è un'altra cosa. Invece Grillo ha questo paragone: il PD è come la mano morta sull'autobus. Senti qui. Ci sono dei partiti che si comportano come la mano morta sull'autobus. Ti mettono la mano dietro. Se ci stai vanno avanti, appena se non ci stai ti dicono che è colpa tua che ti sei appoggiato. Beh, come lettura non è mai, è efficace la sintesi, è l'efficace. Effettivamente, cioè adesso dire è tutta colpa del Movimento 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle non ha votato il super canguro, diciamo così, però ecco, non ci fossero delle divisioni nel PD, non ci fossero problemi con Alfano, non ci sarebbe bisogno di guardare al voto del 5 Stelle che mi risulta ancora stia all'opposizione. Senti qua ancora WhatsApp, che poi andiamo al traffico. Milan, io non sono infermiere, sono camionista, ma se volete ve la curo anch'io. E vabbè, lasciamola così, salutiamo il nostro amico camionista. Iniziare la mattina ridendo. Vabbè, vedi, ti è già passata la febbre, andiamo al traffico. Alessandro Milan, sei solo traffico e distintivo. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta... Renzi è falso, tutti i numeri che dà sono falsi. Il 22 dicembre Renzi termina la Salerno-Reggio Calabria. Per il 25 probabilmente riuscirà a mandare un italiano su Marte. Ehi, diventa come me vegetariano e mangia solo patata. Ma Renzi perché non ha chiesto anche la stepchild adoption, visto che chiedeva la fiducia? Perché Alfano è sempre Alfano, comanda lui. Facciamo come Portobello, telefoniamo, chi riesce a farmi agolare Caterina vince, che ne so, una cena con Paola. Ma questa è straordinaria! È un contest bellissimo! Bellissimo! Ma questo ve lo ricordate? Portobello? Portobello, vabbè. Caterina, vieni qua, dov'è? Questo dai, Caterina, vediamo. No, è meraviglioso. Ci provo io per primo. Aspetta un attimo che te la passo. Caterina. Caterina. Miau. Si sente? Miau. No. Non so se avete sentito questo. Cosa ha fatto? Ha fatto una specie di... E l'ha fatto. Sembra una capretta, ma in realtà era lei. Cioè era un miagolio? Cioè ho vinto così subito una cena hai con vinto, Paolo. Hai vinto subito così una ma cena. Ma vabbè, ma ecco straordinario. Là. Luca, allora, non lo so, perché... qua subito al primo colpo. Caterina subito ha ceduto. È bellissima questa cosa. È Alessandro, va bene. Allora, cari amici, qui c'è la svolta, ragazzi, non lo so, è il giornalismo italiano anche un po' così. Berlusconi è diventato vegetariano. Caro Luca, toccherà occupartene, Non credo. No, ecco, non credo. Oggi i giornali se ne occupano già, i sondaggi, sapete, Berlusconi ragiona così, ha visto che l'8% degli italiani sono diventati vegetariani e quindi è vegetariano. Nel senso che proprio, ma non è una battuta, c'è già interpellata sui giornali Alessandra Ghisleri, la sondaggista di fiducia, a dire quanto può giovare la svolta vegetariana di Berlusconi. Luca, niente. Proprio, non riesco. Non mi sembra proprio. Non riesco sì, proprio. L'ho letta questa cosa. Secondo me non gli Porta tre voti. Tre voti. sì, adesso sì, la lancio lì, avrà visto sul nostro Sky TG24 forchette contro coltelli, no? Davvero noi facciamo anche questa campagna. Quando vedi questa reportage e studio così attento, sono sincera, voglio diventare vegetariano e anche oltre ti viene. Assolutamente. Ti viene. Sì, sì, poi sì, non so se tutto questo, in tutto questo voglio far entrare anche i voti, geniale. No, ma capito, ma insomma, diciamo che Berlusconi, guarda, è sempre abbastanza attento a queste cose, ecco, tutto qua, che ti devo dire. Comunque, insomma, niente, non ti smuovi. I vegetariani comunque stanno meglio, ecco. Ha avuto molti anni di governo per far passare delle leggi che aiutassero davvero gli animali negli allevamenti. Ah, pensavo anzi, i vegetariani. Faccio un appello anche a questo governo, perché veramente purtroppo gli allevamenti lager sono una realtà anche italiana. E come no, ma da quando c'è la Brambilla con lui, anche tutta Brambilla è una combattente, lui, cioè. Io la ricordo una volta in una puntata contro un cacciatore che era lì che difendeva le regole, le norme della caccia. La ricordo ancora quella, ma infatti è già gongola la Brambilla per questa. Non credo ci sia stato un omicidio a Sky. No, in diretta, in presa diretta, questo no. Invece sapete cosa spero che accada molto presto? Che venga fatta, visto che ieri c'è stata questa ulteriore informazione, notizie, ma veramente venga fatto qualcosa contro quella piaga oscena del caporalato nel nostro paese. Versiamo tanto, urliamo tanto, ci rubano il lavoro, vengono qui, ci rubano il lavoro. Leggiamo con cura quello che è stato tirato fuori dall'ultima inchiesta ieri. Cioè, far vivere le persone come bestie e poi noi consumiamo i prodotti, ma giustamente, ma non lo sappiamo che provengono da lì o da là. Allora, come ci sono gli allevamenti intensivi e mostruosi dove una gallina è costretta a vivere così in centimetri 10 per 10, andiamo a vedere anche come vivono persone che hanno solo commesso l'errore di venire a cercare. Un po' dovremmo saperlo, se ti arriva la frutta. Se una cosa costa troppo poco. Eccolo lì, lo stavo dicendo anch'io. Ti arriva solo, non so, adesso dico qualsiasi prodotto a un euro 5 kg, sì. No? 2 euro oltre 5 kg, la cassetta, chissà chi l'ha preso. È stato Fabrizio Gatti che ha fatto il raccoglitore di pomodori illo tempore ed è uscito in copertina e ha raccontato. Quindi non è che abbiamo bisogno del racconto raccontato, avendo fatto benissimo ieri a fare queste indagini, sia chiaro, perché è indispensabile. Però alla fine qualcosa si capisce, no? Sì. Cioè i territori sono quelli, le zone sono quelle, le persone sono quelle. È vero. Fare? È vero. Perché? Vabbè, in questo minuto finale, detto che Luca Dini non ti interessa il vegetariano, non ti interessa neanche il complotto. No, mi interessa. A Berlusconi che dice che c'è il complotto, che lo intercettavano, neanche questo. No. Non era un complotto, il complotto lì l'ha fatto lui e quindi è fatto fuori da solo, diciamo la verità, dai. Vabbè, allora in copertina di Vanity Fair c'è Leonardo DiCaprio. Tutti con lui. Vincerà questa volta l'Oscar. Non si sa, fai una previsione. Se non vince mi dimetto. Se non vince mi dimetto. Attenzione! Attenzione, Luca Dini all'estero. Mette sul piatto le dimissioni da direttore. Se non vado vince a vivere in Canada, come per Trump. Dai. Ecco, se non vince, ma quanti Oscar? No, vabbè, secondo me vince anche il miglior film, però diciamo lo deve vincere lui. Lui come miglior attore protagonista, questo. Certo. Ecco. Se non vince come miglior attore protagonista, quello che ha fatto prima, oltre a questo film. Comunque è un pericolo, il nostro direttore ha detto così. Vabbè, sì, esatto, si dimette. Va bene, anche se io segnalo soprattutto un articolo dedicato a Melissa Satta, che ho avuto il piacere di conoscere a Tiki Taka, da quando l'ho conosciuta due lunedì fa, non ricevo altro che messaggi di amici. Dimmi com'è dal vivo. È bella, come la vedete anche in foto, insomma, è Melissa Satta, cioè adesso non è che devo stare a spiegarmi, insomma. Allora, tu Paola, alle 15 oggi ci sei? Sì? Pronti, prontissimi. La febbre è passata? Infermieri, camionisti pronti per te, se vuoi. Un pacchettone di fazzolettini di carta e via. E via andare alle 15 in onda. Via. Allora vi devo salutare e vi mando un grosso abbraccio. Alla prossima. Il segnale orario vi è offerto da